dai e vai. Non è solo calcio. Di Sergio Ferrentino e Luca Gattuso. Ci risiamo, nel senso che siamo tornati in questo senso, ci risiamo, siamo di nuovo qua. Lo diciamo per quelli che si sono messi in questo momento in ascolto, questo è Dai Vai, grazie a tutti per essere all'ascolto e per viaggiare sotto la pioggia, tra le altre cose, cosa che noi abbiamo in qualche modo mappato, poco devo dire. Non tanto dove è arrivata la pioggia, quanto dove era il sole oggi. 5-6 località SMS sono arrivati. Beh, dai, c'era Corato, c'era Diamante lì dalla la costa di qua della Calabria. Poi Siracusa, dove abbiamo fatto la finale di Coppa Italia della Canoa Polo, non pioveva. Sì, vedi, non è che ti ricordi tutti. Adesso ti dico tutte le località in mezzo fra Corato e Diamante. Invece sono arrivate, come dire, a valanga gli SMS dedicate alla coppia più forte dei nostri ricordi. Quando parliamo di coppia non stiamo parlando ovviamente di coppie di fatto, ma bensì di coppie d'attacco e giocatori, visto che Al-Sharawi ha avuto un po' questo piccolo gesto di presunzione dovuto anche all'età, è giovane, insomma, no? E quindi ha detto: siamo la coppia più bella del mondo, insomma, cioè lui e Balotelli. Certo, cioè, sì, lui certo. Balotelli, beh, golasso, come abbiamo visto tra l'altro nel Brasile, contro il Brasile, un bellissimo gol, devo dire. Sì. Tu non l'hai visto, vabbè, quindi no, io non l'ho visto perché... quindi è inutile che dici sì. No, è perché mi ero depresso dopo il primo tempo e non ce l'ho fatta a vedere il secondo tempo. Ecco, non dire queste cose, cioè, voglio dire, nel primo tempo c'è stato veramente una grande Italia, ma non stiamo qua a parlare di cose ormai passate, ormai superate. Ormai è passato veramente tanto. No, più che altro già dobbiamo guardare avanti, dobbiamo guardare a Malta. Esatto, martedì ricordiamo Malta che è uscita sconfitta 6-0 proprio giovedì sera nelle qualificazioni mondiali e pare che abbiano, si dice, il dente avvelenato, che siano abbastanza contrariati dalla prestazione della nazionale, quindi cerchino rivincita con la nazionale italiana. Martedì sera alle 20:45 si giocherà il turno di qualificazione ai mondiali del Brasile del 2014. Ma noi diciamo anche, non è solo calcio, quindi parliamo di Serie B. Come di Serie B? Ah, di calcio di Serie B. Parliamo anche di Serie B in questo caso. Sì, perché in questo momento si sta giocando Empoli-Bari, è il posticipo della Serie B, il risultato è 0-0. Sì. Sembra tanto una partita del calcio balilla, nel senso che il Bari ha la maglia rossa, l'Empoli ha la maglia blu, sembrano gli omini del calcio balilla, stanno giocando, comunque 0-0 il risultato. Scusa, ma dammi un po' l'audio, perché così vediamo un po' se funziona anche questo. Facciamo una prova tecnica, no? Ecco, non è andata. Quindi stai dicendo, magari se hai fermato l'iPad, ma in realtà poi dopo all'interno... No, ho tentato di farla andare, ma in questo momento non va. Non va. C'è un blocco. Che ridicolo, è la pioggia. Veramente. Baiano e Battistuta, ci dicono. Questo è uno degli ultimi SMS che sono arrivati al 349-238-6666 e stiamo parlando di coppie che in qualche modo ci hanno illuminato d'immenso. È vero che, certo, stiamo parlando di coppie d'attaccanti, ma anche coppie che non sono necessariamente attaccanti. Ci parlava oggi con Gianni Mura di Platini e Boni, che sono assolutamente un'anomalia, però tutti se li ricordo quando c'erano loro due, anche perché sono arrivati insieme tra l'altro alla Juventus in quel momento. Esatto, era una coppia di quello che citava appunto Gianni Mura, un dato statistico, sia Platini era un centrocampista che segnava con i numeri di un attaccante. Parliamo di palla, ma parliamo anche di altre cose, parliamo anche di pallamano, giusto? Esatto. Ecco, e parliamo direttamente con il direttore tecnico della nazionale femminile futura e parliamo con Marco Trespidi. Buonasera, ci sente? Buonasera a lei. Come sta? Tutto bene? Sì, direi abbastanza bene, siamo rientrati stasera dalla Finlandia, la voce non è il massimo per una trasmissione radiofonica, ma con tre partite in 24 ore. Guardi, se andiamo in onda noi può parlare anche lei, tranquillo, non c'è problema. questo ci fa capire che nella pallamano i tecnici urlano molto. Eh sì, perché il campo è abbastanza grande e con il pubblico e il resto farsi sentire non è semplice. Ma le ragazze l'ascoltano oppure lei urla convinto che le ascoltino e le ragazze non sentono niente? No. Assolutamente no, però per dare un senso alla mia figura devo gridare. Ecco, questo. E quindi anche si fa notare, perché sennò tutti guarderebbero soltanto le ragazze in questo caso. La cosa che volevamo capire è questo progetto che di pallamano e della nazionale femminile futura. Si chiama Progetto Olimpico Rio 2016, cioè è stata fatta una squadra finalizzata alla formazione che dovrebbe andare alle Olimpiadi, giusto? Esatto, un anno e mezzo fa è partito questo progetto che prevedeva la ricerca di alcuni dei nostri migliori talenti in una fascia di età compresa tra i 16 e i 20 anni, radunandoli a Roma attraverso un protocollo d'intesa tra l'esercito, i CONI e la Federazione Italiana, in modo di consentire a queste ragazze di avere un centro di addestramento importante come quello del Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito alla Cecchignola, sì. Nello stesso tempo poter avere la possibilità di continuare chiaramente il percorso di studio. Ecco, ci sono due problemi che vengono immediatamente in mente. Il primo, se queste ragazze sono le migliori ragazze italiane, le avete sottratte alle squadre che giocano nel campionato. Sì, esattamente. E le società erano contentissime di questo, immagino. Devo dire che, nonostante la cosa possa sembrare strana, sono state molto contente, anche perché noi abbiamo preso atleti giovani, perché in sostanza non abbiamo intaccato il patrimonio delle società di primo livello. Sono tutte atlete che vengono da società di seconda lega o terza lega o addirittura campionati giovanili. Le società sono state ben contente di collaborare, c'è un'altissima collaborazione in questo momento con i club. Senti, la sentiamo un po' sfiancata, nel senso, ma è il viaggio o è stata la partita o è stata la trasferta? Abbiamo fatto 3 giorni a meno 15. Qual è il problema, perché dovevamo capire qual era l'anomalia in tutto questo, perché la sentiamo veramente provata, non volevamo incidere così tanto anche noi con la telefonata in questo caso. Meno 15 in Finlandia, ho capito bene? Esattamente, eravamo in un centro sportivo a nord di Helsinki, ospitati dalla federazione finlandese. Abbiamo giocato 2 partite amichevoli con la nazionale seniores e 1 con la nazionale under 19, che diciamo in questo momento è quella che ha la preparazione più imminente per le qualificazioni al campionato europeo di categoria che si svolgeranno a metà maggio in Francia, a Parigi. Ecco, il secondo problema che c'è al di là del rapporto con le società è il fatto che voi non partecipate al campionato italiano, ma giocate in Slovenia, giusto? Esatto, lo scorso anno, il primo anno abbiamo ritenuto opportuno iscrivere la squadra al campionato di A1 femminile italiano. Per il secondo anno abbiamo creduto che per un'esperienza tecnica maggiore, anche perché queste ragazze non hanno come obiettivo quello di vincere il campionato, per cui pareva assolutamente fuori dalla logica tecnica continuare a partecipare nel campionato nazionale, che peraltro è in questo momento inferiore a quelle che sono le nostre attese tecniche, per cui dobbiamo confrontarci con un campionato di un livello tecnico superiore. Per questo, dopo una serie di discussioni e varie opzioni che ci sono state proposte dalla federazione francese, spagnola e ungherese, abbiamo scelto la federazione slovena come campo d'atterraggio, perché da un punto di vista logistico è abbastanza facile, la Slovenia è piccola. Quindi potevate anche andare in altre nazioni a fare questa specie di... Io avrei puntato sulla Spagna. E come ci ha messi lì in Slovenia? In questo momento siamo nella parte alta della classifica, siamo sesti e abbiamo 4 partite da recuperare. In sostanza il nostro obiettivo è quello di qualificarci per i playoff sloveni. Ecco, mi scusi, ovviamente un grandissimo risultato. Posso fare una domanda così? Ma la Slovenia ha una grande tradizione nella pallamano? Direi proprio di sì. I paesi dell'ex Jugoslavia hanno dettato legge per una vita. In questo momento la squadra che è in testa alla classifica in Slovenia, il Krim di Lubiana, è in semifinale di Champions League. Quindi in realtà è la tradizione jugoslava che ritorna nelle squadre, negli sport di squadra. Quindi. Certo. Quindi adesso ho capito dove ci poteva arrivare da solo, però è bello sentirlo da lei in questo caso. Senta, ma il 31 agosto 2016 cosa succede? Non lo so, so, potremmo festeggiare una gran cosa oppure trovarci davanti alla televisione. No, ecco, no. Magari davanti alla radio, che magari sì, è ancora più triste. Guarda, ci troviamo davanti alla televisione. Se per caso accadesse questa storia, però, per favore, un po' più d'allegria, direttore tecnico, non faccia così, mi raccomando. Si vada a riposare intanto, se l'è meritata. 15 gradi, 3 giorni. Io già andando fuori adesso a Milano, c'è già freddo. Grazie, buona serata. Grazie a voi. Ci saluti tutte le ragazze, grazie, a presto. Marco Trespidi, direttore tecnico Futura Pallamano, hai capito? No, è come se avessero preso allora la nazionale italiana e poi hanno detto ok, al posto di far giocare Sharawi nel Milan, Balotelli nel Milan, Barzagli nella Juventus, andiamo a giocare in Svizzera. Andiamo a giocare tutti in Svizzera. Nel campionato, No, magari andiamo a giocare in Spagna oppure in Inghilterra, cioè campionato a un certo livello. Sì, lì lo perdi di sicuro. Beh, in Svizzera magari ti qualifichi. Per il momento intanto ne parliamo dopo di tutto questo. E adesso ci dedichiamo un po' al traffico. Dai e vai. Strade in diretta. Buonasera, alle 22:15 minuti, al momento nessun particolare disagio su strade e autostrade, il traffico infatti è scorrevole sull'intera rete autostradale lungo i principali percorsi. Attenzione però alla pioggia al nord, deboli nevicate in corso sulla 22 del Brennero tra Vipiteno e il confine con l'Austria, sulla 5 tra Courmayeur Sud e il traforo del Monte Bianco e sulla 23 Palmanova Tarvisio tra Pontebba e il confine di Stato. E nelle prossime ore è prevista neve a quote molto basse tra Emilia e Veneto, si raccomanda quindi la massima prudenza alla guida e allerta per il maltempo nella giornata di domani anche al centro-sud. Per chi viaggia in treno segnaliamo che domani circoleranno regolarmente i convogli di Trenitalia, è stato infatti ridotto ad una sola ora dalle 9 alle 10 del mattino lo sciopero nazionale di 8 ore proclamato dal sindacato Orsa. Solo nella regione Campania l'agitazione sarà di 8 ore dalle 9 alle 17, quindi saranno possibili ritardi e cancellazioni per i treni regionali. Ed è tutto, il prossimo aggiornamento tra circa mezz'ora. Dai e vai. Non è solo calcio. È solo un gioco, ma... Non mi dire così! Per favore, è la cosa peggiore, la più stupida che uno potrebbe dire! Perché mi sembra evidente che non sia soltanto un gioco. Sì, insomma, se lo fosse, pensi forse che me ne fregherebbe così tanto? Eh? E già la via, amaro via, romale che io me la andiamo sugli accostamenti veramente colti e stiamo parlando sempre delle grandi coppie, quelli che in qualche modo hanno illuminato la vostra vita e quelle a cui siete più affezionati. Un po' tutti quanti noi abbiamo le coppie che ci hanno in qualche modo accompagnato per un certo periodo, ci hanno preso per mano e insieme a loro abbiamo fatto un pezzo di strada e difficilmente poi ce le possiamo dimenticare. Roberto Bettega e Anastasi, ci arriva ovviamente Vialli e Mancini, no? Ovviamente Gullit, Van Basten. Devo dire che questo mi sembra molto interessante. Gulli, Van Basten, Davin Bird e Brian Eno. Quello è un quartetto, non va bene. E poi soprattutto... Adesso poi ti spiego la differenza tra i primi due e i secondi due. Non è un quartetto. Senso che Brian Eno non era forte come centrale, più di fascia. Dopo ti spiego bene come questa. Che faceva di quadrilli come Brian Eno, hai capito? Davin Bird invece Gulli. Non è proprio la stessa identica cosa, però di questo stiamo parlando. La tradizione jugoslava ricorda al nostro Paolo, ricorda la coppia Stojković-Pančev. Bella coppia. Pančev? Sì, appunto. Stojković-Pančev. Questo bella più coppia. Che la bella bel ricordo potrebbe anche essere un incubo per quanto riguarda poi i tifosi che hanno poi avuto Pančev nella propria storia. Qui Bologna, sole è tramontato, ma l'abbiamo sempre dentro. Ferrari rientri domenicali. Andrea, comunque finisce con Andrea. Sentiamo questa. È doppio significato. Rientri domenicali e domenicali. Domenicali quella della Ferrari. Sì, e non perché questa sera sta rientrando. Rientri domenicali questo passaggio. Mandate ancora gli SMS per quanto riguarda le grandi coppie e soprattutto la domanda che poi così non vi lasciate anche mandare perché siete un po' così, anche un po' col braccino corto, no? Ecco, quando tu sei lì con gli SMS, col ditino stitico. Beh, diciamo. Che brutto, è così, di tiro che stitico. Orrore, è un dato di fatto. Vabbè, è brutto. Questa persona, insomma, cioè, vi lamenta, scrivete poche cose, giustamente, perché non è il caso di inondare gli sms, però diteci anche se che cosa pensate di Al-Sharawi e Balotelli. Sono veramente la più grande coppia di questo momento che c'è in giro nel mondo? Sì, no, non so, può darsi. Già spiegato che non è bellissimo quando c'è questo pezzo musicale che tu cominci a ancheggiare dentro lo studio. No, dai sti risultati di Serie B, dai. No, sti risultati, come se ci avessi 10-1. Quelli di oggi li lasciamo da parte. No, quelli di oggi li lasciamo già da parte. Passati. Vuoi sapere anche quelli di oggi? Beh, vedi tu, non lo so. Diamo soltanto informazione così parziale. No, cioè, va bene, diamo anche quelli. Intanto iniziamo a dare quello di questa sera, perché è cambiato. Empoli-Bari ha segnato Romizzi al 19° del secondo tempo. Tra l'altro c'è da dire che il Bari gioca in 10 dal 27° perché era stato espulso Junco, quindi Romizzi per il Bari. No, Junco. Sì, ma non quel Junco. Come facciamo? C'è una dinastia di Junco nel calcio mondiale. E quindi il risultato è Bari 1, Empoli 0 in quel di Empoli. Ma adesso Super Mac mette la solita doppietta, pum pum, vedrai l'Empoli che recupera. I risultati di oggi vuoi? Sì. Va bene, Spezia Pro Vercelli 1-3, il Brescia ha pareggiato col Cittadella 2-2, Livorno Lanciano 2-0, Novara Ascoli 1-0, Regina Juve Stabia 2-1, Sassuolo Ternana 0-0, Verona Crotone 3-2 e Vicenza Varese 1-1, e si sta giocando in questo momento Bari Empoli col Bari in vantaggio 1-0. Scusa, però guarda quel praticello, perché noi ci abbiamo davanti le immagini del golf. Se abbiamo immagini del golf da Orlando in Florida. No, la pallina, sai quando la pallina gira attorno al buco e poi resta fuori? Vabbè. Fa quella curvetta e così. Certo che quel pratino lì è bellissimo, bellissimo. Pensa a metterlo a San Siro. Ma è vero, prato vero. No, prato vero, erbetta. Mica erba sintetica. No, scherzando. Ma tu stai scherzando. No. Orlando in Florida, erba vera. Erba vera. Che si differenzia dal sintetico. No, che uno è vera, l'altro no. Meno male che non hai detto quello che stai pensando sull'erba e su tutto il resto. Vabbè, la differenza tra il sintetico e l'erba vera, si fuma e l'altra no. Sì, noi però adesso affronteremo l'erba sintetica, no? Cioè, sì, l'erba campi, sintetica. L'erba sintetica, i campi di erba sintetica, insomma, quella parte lì che, diciamolo chiaramente, siamo assolutamente inadatti da affrontare, e quindi abbiamo chiesto subito un commento al nostro Lorenzo Aralla, che è il direttore commerciale della Politan, giusto? Ho detto giusto? Sì, buonasera. È tutto corretto quello che ho detto? Politan, assolutamente. Eccolo corretto. Qua. Mi raccomando, ripetiamo il nome della società, così facciamo pubblicità gratuita. Com'è che si chiama? Politan, no, diciamo. L'abbiamo già detto. Aralla, capisco che è commerciale, però non fino a questo punto. Ma lui coglie subito l'attimo, come si suol dire. Allora, parliamo di questa storia. Insomma, c'è qualcosa di strano che ha colpito, tra l'altro, il nostro collaboratore Luca Cancellara, che ci ha raccontato che c'è la possibilità in qualche modo di quantificare, date la possibilità di creare vari campi di calcio, non soltanto i grandi campi di calcio, perché voi avete creato grandi campi di calcio, giusto? Sì, corretto. Politan è una società tedesca che si posiziona abbastanza in alto nella realizzazione di impiantistica sportiva in generale. Aralla, scusi, quindi, non sta facendo il manifestino della no, cioè, così agile proprio. Ci dica dove, cos'è che avete fatto? Quale campo avete fatto? Una news che vi posso dare è che lo stadio di Vancouver, su cui si giocherà il mondiale, la finale dei mondiali 2015 femminile, è uno stadio Politan. Attenzione. La news di questi giorni. Attenzione. Quindi parliamo di campionato del mondo. Sì. A Vancouver. Okay? A Vancouver. Mm. In Canada. Nel BC Place di Vancouver. Ecco, ma lì sono campi in erba sintetica, ho capito bene? Sì, assolutamente. Ecco, quindi il meccanismo lì si va sicuri, anche perché a Vancouver con la quantità di neve che c'è, tra le altre cose. No, ecco. Ma altri campi invece più vicini? Beh, il Bayern Munich, quasi tutte le società tedesche di utilizzano i nostri campi per i loro centri di allenamento. In Francia abbiamo tre stadi di Serie A, il Nancy, il Laurent. Ecco, in Italia stiamo realizzando delle bellissime cose anche a livello professionistico. Ecco, stadi di Serie A in Francia, ha detto, dove si svolgeranno gli europei. Ci sono anche degli stadi dove si giocheranno gli europei? Non sappiamo ancora se verranno assegnate le partite a Nancy e Laurent. Sono squadre di prima divisione, l'assegnazione non c'è ancora, ma certamente l'apertura da parte di FIFA e UEFA c'è. L'Italia in questo senso è un po' più pigra degli altri paesi, sì, ma vuol dire che abbiamo la fortuna di avere un clima che consente l'utilizzo di campi e il mantenimento di campi in erba naturale. Beh, sì. Laddove è possibile, esatto, metto da parte il mio ruolo di commerciale, sì, sì, e spazio all'erba naturale, sì, questo nulla da dire. Però abbiamo dei casi, voglio dire, in cui abbiamo anche degli stadi nostri di Serie A, in cui nonostante gli innesti di sintetico e naturale non riusciamo ancora ad ottenere i risultati sperati, per cui sì, laddove non ci sono i presupposti o le condizioni che possono essere climatiche o economiche, vince di gran lunga il campo in sintetico. Ecco, senta Ralla, si sente sempre parlare di campo di ultima generazione, giusto? Di erba di ultima generazione, ma quando finisce sta generazione? Perché è sempre l'ultima generazione. C'è sempre una nuova, sempre l'ultima. Ho capito, ma qual è l'ultima generazione? Sicuramente siamo in continuo sviluppo. L'obiettivo è quello di avvicinarci il più possibile ai campi in erba naturale. Cosa manca? Manca poco, manca veramente poco. Ripeto, se UEFA e FIFA ha recepito i campi in erba sintetica anche per manifestazioni di carattere internazionale, perché ormai siamo arrivati. Non manca niente, manca da parte del mercato, delle squadre di Serie A, c'è un po' di sfiducia. I giocatori sono giocatori abituati a giocare, hanno praticato per anni esclusivamente campi in erba naturale, per cui hanno un po' di diffidenza, ma i futuri giocatori, i futuri professionisti, stanno crescendo esclusivamente su campi in erba sintetica. Ecco, senta, volevo dire un attimo a Luca se è difficilissimo vendere un prodotto dicendo è di penultima generazione, quindi dici sempre che è di ultima generazione. No, ma è che il problema è che l'ultima generazione non riesce a vendere. Sono vent'anni che c'è questo passato. Campi no, però generazione. La cosa interessante è che sempre lei, c'è scritto sul sito dove siamo entrati dentro: vuoi provare l'erba del campo di allenamento del Bayern Monaco? E voi date la possibilità di creare, di provare in qualche modo a immaginare il costo, no? Mi pare, se ho ben capito, di un campo di calcio, da 7 oppure da 5, insomma da 11, giusto? Abbiamo capito bene? E si entra dentro il vostro sito, si può in qualche modo fare una simulazione. Costruire. È quasi un videogame, nel senso che uno mette le dimensioni, mette le righe, se le vuole bianche, le vuole gialle, eccetera, e si costruisce il campo, giusto? Corretto, noi siamo una società straniera, approcciamo il mercato italiano in una maniera un po' anomala per questo settore, con un messaggio chiaro di trasparenza e con un'offerta precisa mirata ad un settore per noi nuovo, che è il settore del calcio a 5 e calcio 8. Lo chiamiamo un fenomeno, in quanto nel resto d'Europa non esiste. Non è risaputo che in altre zone d'Europa si paga per andare a giocare a calcio. In Italia c'è questo settore molto importante che ricopre una bella fetta di mercato, su cui stiamo intervenendo con delle azioni, tra quelle di commerciali. Una di queste è quella di presentare al pubblico in maniera chiara e trasparente quello che costa realmente realizzare la superficie sintetica di un campo da calcetto, da calciotto, da tennis, come giustamente avete osservato. Ecco, indicativamente un campo di calcio a 5 con l'erba, quella di ultima generazione, tanto per dire, quanto viene via così? Le superfici hanno una forbice tra i 15 e i 50 euro al metro quadrato, a seconda delle qualità. È chiaro che un campo FIFA 2 stelle, voglio dire, costa molto caro e sarebbe forse anche inadatto e troppo soffice per un campo da calcetto. Campo da calcetto ha un prezzo medio in Italia tra i 15 e i 20 euro al metro quadrato. Bene, 15 euro al metro quadrato. Ecco, ma lei si può comunque, basta entrare nel vostro sito e riuscire a capire immediatamente, insomma, quanto viene a costare. Se ben capito, si fa una simulazione e escono fuori delle cifre, no? Sì, potete tranquillamente sperimentare più soluzioni, potete come scegliere la tipologia di materiale, la tipologia di intaso prestazionale. Di che cosa? In tempo reale ottenete. Intaso prestazionale. Ah, intaso prestazionale. Vabbè, se non sei... No, ho capito male, ok. Smettila. Va bene. Cosa vuol dire intaso prestazionale? Allora, il manto è in erba sintetica, sì. È composto da un filamento di polipropilene o polietilene, dentro il quale viene inserita della sabbia quarzifera che ha lo scopo di dare zavorra a peso specifico. Perfetto, ecco. Era quello che volevo sapere. Vengono messi dei pallini di gomma più o meno vergini, a seconda del budget che uno ha a disposizione, che consentono al tacchetto della scarpa da calcio di penetrare e garantiscono una torsione che non crea problemi ai legamenti. Ecco, questo ha fatto bene a dircelo, perché così almeno Luca riesce a capire queste situazioni un po' così complesse per certi versi, ma curiose, devo dire. Insomma, mi sembrava una cosa particolarmente interessante, insomma, capire quanto poteva costare un campo in sintetico per quanto riguarda i miei amici che vanno a giocare a calcetto e che magari, insomma, sono interessati anche a questo aspetto. Noi la ringraziamo per la disponibilità e buona serata intanto. Grazie a voi, buonasera. Grazie mille. Salve. Dai e vai, la trasmissione vi parla di calcetto. Intaso, no, di intaso prestazionale. Comunque è un intaso prestazionale, questo che è la cosa. Comunque, dato che la cifra non la voleva dire il direttore commerciale Aralla, l'ho calcolato io. Sì. Allora, 15 euro al metro quadro, un campo di calcetto sono 800 metri quadri, viene 120.000 euro. Vabbè, guarda. Hai visto? Pubblicità 22:30, siamo già un minuto in ritardo, vai. Dai e vai. Yuhuu! Con Pam sei felice come una Pasqua. Fino al 31 marzo, 250 grammi di lasagne sfoglia velo rana a 1,59 euro. Buona Pasqua. Supermercati Pam. Più a meno. In concorso al Sundance Film Festival. Credo di non essere qui per dimostrare a me stessa che so vincere la paura. Sono qui per scoprire altri valori. Dal regista dell'Uomo che verrà, il nuovo film di Giorgio Diritti. Un giorno senti che devi cambiare vita, che non puoi più stare dove stavi, che devi andare, devi essere, devi sperare. Jasmine Trinca, un giorno devi andare, dal 28 marzo al cinema. Dai e vai. Non è solo calcio. I bet you wondered how I knew about your plans to make me blue with some other guy you knew before. Between the two of the skies, you know I love you more. It took me by surprise, I must say. Ce l'avevo lì sulla punta delle lingue, Paolo Rossi e Filippi. Paolo Rossi, Filippi della Nerozzi Vicenza, coppia indimenticabile. Quella Nerozzi Vicenza là? Sì, proprio indimenticabile. Cioè, Filippi, come. Cioè, no? Filippi, lo ricordo, con i capelli lunghi, giocava con i calzettoni abbassati, allora, sulla fascia. Da milanista, Iniesta e Messi, che sono una coppia, fino a un certo punto, danno una pagona a Elche e Vavalo, come Miles Davis e Bill Evans. Danno una pagona a Simon e Garfunkel. Ormai siamo scivolati sulla musica, hai capito? Cioè, tutti quelli che fanno la coppia di calcio. Tanto non è uno scivolo, ma è una salita, perché è molto più difficile adesso scivolare. Cioè, se quando parliamo di musica, cioè, adesso non ti capito. Comunque il campo di calcetto era 12.000, non 120.000, ho sbagliato 1-0. Ah, beh, butta via. Vabbè, ma è uno scivolo. No, no, ho capito, Hai fatto i conti durante la pubblicità. Sai qual è? Che ti avventuri in terreni non tuoi. No, perché mi sembrava tanto. E dico terreni non a caso, non so se hai colto la facile battuta, però voglio dire. 120.000 euro per un campo di calcetto è tanto, infatti 12.000. Sì, certo, voglio dire, hai voglia di pagarlo. Già c'è un campo di calcetto qua in Ma dove? Via Monte Rosa, qua davanti alla sede di Radio 24. Nanno Galderisi ed Elchiar Elchiar, quello del Verona. Sì, esatto, quello del Verona, lo scudetto tra le altre cose. Nanu Galderisi, altre coppie che stanno arrivando, che vi hanno entusiasmato nella vostra vita e che vi hanno illuminato, insomma, alcuni passaggi importanti. To the grave. 349-238-6666, 349-238-6666, e invece per gli ascoltatori coraggiosi, come i capitani in realtà, l'824-0024, 824-0024, tanto state tornando tutti a casa, state tornando in macchina, c'è la pioggia, siete lì abbandonati a voi stessi, tristissimi. Beh no, abbandonati a voi stessi no, tanta gente lì in autostrada, passi, sorpassi, fai fari, sai quando sei dietro che fai, sì, la fai fare, scusa, c'è la pioggia, non mi dice niente, tanto andate piano, tanto per no, cominciare. No, andare sempre piano. No, e poi ricordatevi, fra 10 minuti qui su Radio 24, tutte le notizie sul traffico. Scusa, però volevo dirti soltanto che è arrivato un sms, avete sbagliato i calcoli. Cioè, no, è tardi, già corretto. È facile, 15 per 800 fa magari 12.000, ce la dice, esatto, un altro. Già corretto, dire, già corretto. Sì, basta, certo, basta. Ecco, perché te l'hanno segnalato. No. E adesso fai sempre questo atteggiamento qua. Vabbè, dai, va. I'm the type to sport shell toes with a guaya vera. Como un radio de los grandes a mi lado from the old escuela. Escuchando mis cintas de rap en español. Hangueando en la avenida, munching on a mango. You don't want a tango. Right through, I'm letting you know, bro, que I'm considered to be one of a kind, como el coquín. Así que make some alboroto if you're proud to be Puerto Rican. Check out the delingo that I was freaking. Straight from the New York street, las carreteras. I call it New York, freaking Spanglish sin barreras. Y yo no me llamo Tito, but I'm about to take it through the puente, cause I'm in a Boricua state of mente. So pump your hands for the Rufo y déjame do my thing. I'm chilling como un building, and el invierno sin el fin. And mi viejo South Bronx, yeah, yeah. Que viva. No, di. No, siamo in quella situazione, sì, in cui sì. al 47esimo l'Empoli è sotto di un gol, Bari 1, Empoli 0, siamo nel recupero, 4 minuti di recupero, ovviamente l'Empoli tutto avanti, se ci sarà un calcio d'angolo probabilmente anche il portiere dell'Empoli andrà in area. Sì, continua così che mi trasporti, ti piace. Verso questa partita. Adesso una palla lunga del Bari. Sì. Stiamo parlando di Empoli Bari. Sono travolto, guarda questa cosa. C'è Torrente, l'allenatore del Bari, pazzesco. Che non ci sa, c'è lì che si mette le mani in tasca, non trova le tasche. Vabbè, mi è convinto, vabbè. Adesso basta però, non esagerare. Chequeate como sueno. Si es Puerto Rock Brothers, entonces tiene que ser bueno. A la buena o a la mala. Ain't no thing better than Allah. I keep the real like Mama Duke. Keep figuritas en la sala. Listening to Hector Lavo. Y a Willie Colón. Not for nothing but J-Lo. Reminds me of Eddie Chacón. By the way, desde la montaña del oso hasta el parque central, hasta la... Scusa, Paccione Platini. Paccione Platini. Marta. Paccione Platini hai detto, ma non è possibile, cioè, ma come si fa? Cioè, Paccione, cioè, io non mi ricordavo neanche che Paccione avesse giocato nella Juve, sì, sinceramente. Ma, no, beh, Paccione ha giocato nella Juve, no, perché... è che non me lo ricordavo, adesso me l'ha ricordato Marta. Se vuoi te lo ricordo, lui non ha giocato nella Juve, lui ha fatto solo una partita, ha fatto tante, però ha fatto in realtà solo una partita che è rimasta impressa a Marta, è rimasta molto impressa a Marta. Sì, Marta ha sbagliato 4 gol mi pare al Barcellona, quello di... ah, perfetto, questo bene. Però stanno equivocato, ma no, parliamo di cose serie, dai, parliamo di cose serie. Stiamo sulla notizia perché stai parlando di meteo? Ma no, che meteo? Scusa, no, stiamo parlando di Aldo Mazzocchi e stiamo parlando di un avvocato, e questo è una cosa assolutamente normale. Quindi stai attento alle domande che fai, perché questo è un avvocato, sì, che hanno la causa facile, sì, questo. Prendilo in giro come... No, solito, io non lo prendo in giro, appunto, ecco, dico, stiamo attenti. È anche atleta. Ah. No? Ecco, allora questo caso. E fa un qualcosa di particolare, no? Di veramente un po' strano, no? Io lo leggo così, io passo, sono lì che guardo il giornale, sfoglio, sai, un po' così, un po' svegliato, guardo le figure, sì. Su questa figura vedo dei pini pieni di neve e dopodiché leggo: in bici nel gelo per 700 chilometri fa l'avvocato. Ah. Ecco, no, questo... allora a questo punto diventa assolutamente interessante, cioè, e soprattutto importante sapere perché e soprattutto come ha fatto, ma soprattutto perché, dove, cioè, insomma, Aldo, pronto? Sì, eccomi qua, ascolto. Tanto, sì, no, adesso ci devi raccontare tu questa storia, cioè 700 chilometri in bicicletta, intanto di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una gara di endurance che si chiama... Yukon Arctic Ultra, è una gara che un centinaio di picchiatelli decidono di disputare in varie categorie e su varie distanze. Ecco, quindi picchiatello è un eufemismo, no? Cioè, hai dato un termine affettivo rispetto a queste persone che partono e fanno quanti chilometri? Allora c'è la possibilità di fare la maratona, quindi 42 chilometri sì. Abbondanti, la 100 miglia, quindi 160 chilometri, la 300 miglia o la 430, che è quella che ho deciso di fare io, ovvero 730 chilometri. Ecco, parliamone, ne avrei parlato con qualcuno. Innanzitutto per spiegare il perché, bisogna dire dove è avvenuto questo, perché il fascino a me è derivato dal luogo che sono andato a scoprire. Sì. Ovvero la mitica zona che comprende Whitehorse, che collega Whitehorse a Dawson City, quindi può venire in mente Jack London piuttosto che Paperone dei Paperoni. Ecco, insomma, sono contestualizziamo, in che paese siamo? Perché non l'abbiamo ancora detto. Ecco, non l'abbiamo ancora detto, in Canada stiamo parlando. Sì, sì. Vabbè, ma se quindi tu non Canada sei... risalendo lo Yukon River, il Klondike al confine sì. con il Canada, quelle zone fredde. Ecco, zone tu... fredde molto... Dimmi. Tu hai detto 700 chilometri, quindi 430 miglia, in quante settimane l'avete fatto? Perché ovviamente l'avete fatto in qualche settimana, perché un essere umano non può farlo al freddo. In un giorno, no? No. Quindi quante settimane? Sette giorni. Sette giorni, 700 chilometri? Sette giorni che fatto in bicicletta sono pochissimi. Beh. Se pensi ai parametri ciclistici normali. Sì, sì, ma se pensiamo ad Armstrong capiamo anche perché faceva così tanti chilometri, cioè adesso non esageriamo. Ora non vorrei che la cosa fosse passata come anche questa una notizia, voglio dire, non è che anche tu prendevi un tigre nel motore. No, ecco. Assolutamente, anzi, quando sento queste notizie mi si rattrista il cuore. Ti si rattrista il cuore, immagino, tra l'altro. Voglio dire. Senti, il fondo com'era? Ecco appunto la differenza tra me e Armstrong, a parte che lui è un professionista e io sì. un amante di queste cose, è che io sotto le ruote non avevo l'asfalto ma avevo una spanna di neve fresca e quindi anche quando riuscivo a pedalavo a una velocità di 10, 12, 15 all'ora al massimo, contro i 60 o 50. Sì, lì ti volevano afferrare nel motore, altro che un tigre, voglio dire, per riuscire ad andare avanti. Insomma, che allenamento fai, scusa, per riuscire a fare però 700 km nella neve? Cioè, tu... Allora, io arrivo qui partendo da giovane con tante... esperienze di lunga distanza e ho fatto anche l'Edita Road famosa per il cane balzo in Canada, ne avrei sentito parlare i cani, io al posto che coi cani l'ho fatta a piedi quella, certo, perché eri troppo veloce coi cani, certo, infatti no, faceva troppo poca fatica secondo me. Certo. Ho fatto il cane di me stesso, però ecco, tutte queste esperienze lì attenzione. Aldo, pronto, fermati, non andare in giro. Non è che magari sta facendo un giro in bicicletta sotto la pioggia. Aldo, resta con noi. No, Aldo, non fare così. No, Aldo. Sì, calma. No, non ti sente. Ma io ci resto male. Hai capito? Cioè, vabbè, comunque stavamo parlando fino a pochi istanti fa con Aldo Mazzocchi, l'avvocato di Brescia che fa queste imprese. Sì. 700 chilometri in mezzo alla neve. Adesso gli chiederemo come si fa a stare in bicicletta sulla neve, perché c'è questo piccolo problema. Non è che c'ha due rotelle a destra, una a destra. Infatti vorrei saperlo. Perché prima o poi arriverà. Come si dice? Dice qua a Milano, se scarliga, cioè si scivola. Cioè, non è che l'abbiamo beccato in Canada? No, spero di no, credo che sia rientrato. Com'è che si dice da te? No, qua dico a Milano, si dice se scarliga, sì, cioè si scivola. Non è che adesso dobbiamo però l'ho spiegato, ok, ecco, ce l'abbiamo, Aldo. Aldo, torna a noi. Pronto, Aldo. Eccomi qua, mi sentite? Sì, perfetto. Sì, dice, volevo anche capire, insomma, come si sta in piedi su con la bicicletta in mezzo alla neve, 10 centimetri di neve? E non è facile, infatti su 730 chilometri li ho dovuti spingere vedendo santi e madonna. Cioè, come si sta in bicicletta, si sta giù dalla bicicletta, insomma, questo è il concetto. La bicicletta si chiama fat bike perché ha le ruote molto larghe e è grassa, quindi. Quanto è larga la ruota in questo caso? La ruota circa 15 centimetri. Ah, quindi è tipo quella di una moto? Di più, sì. Dipende dalle moto. Quindi pesa poco la bicicletta, viene da dire. Anche quanto pesa una bicicletta del genere? Allora, la bicicletta considera che deve essere attoriata perché è una gara in autosufficienza, quindi devo avere il sacopelo, certo. Il fornelletto per sciogliere l'acqua. No, beh, certo. Cioè, Aldo, la neve che diventa acqua. No, Aldo, se no sarebbe troppo facile. Ma cioè, dai, lo faremo tutti. Non ho capito. Allora mica andiamo negli hotel 5 stelle. Ma scusa, allora, se no andiamo tutti lì nello Yucatan, nello Yukon a fare Canada. Di Canada che ti viene meglio, dai. Se non devo farmela in autosufficienza, ci andiamo tutti. Allora, in autosufficienza cosa vuol dire? Che tu sei abbandonato a te stesso in tutti questi 700 chilometri e al limite puoi incontrare Zanna Bianca e basta. Esatto, Zanna Bianca, qualche lupo amico di Zanna Bianca, qualche alce che sono un po' più preoccupanti dei lupi perché sono alte algarrese, anche 2,50. Ah però, 2,50? Sì, sono territoriali, sì sì sì. Ah. Cioè 2,50 d'altezza? Sì, 2,50 d'altezza è più della porta. No, tanto per dirti, più della porta, ecco. No, ha appena fatto il record del mondo. Esatto. Salti in alto lo saltano, vabbè, però. Vabbè. Quindi l'alce è il più... insomma, anche i lupi che vanno in branco, queste cose qua, insomma, no? I lupi normalmente tendono a scappare, non attaccano l'uomo. Ah, sì. Perché mentre l'alce socializza... Soprattutto se ha un piccolo e tu entri nel suo territorio, tende a caricare. Ah, caricare. Senti Aldo, devi restare assolutamente con noi, non ti muovere, resta lì, non ti agitare con la tua bicicletta perché abbiamo il traffico, ma torniamo di nuovo a te. Dai e vai. Strade in diretta. Buonasera, 22:45 minuti, traffico scorrevole al momento sulle autostrade lungo le principali strade, attenzione alla pioggia al centro-nord, deboli nevicate in atto sulla 22 del Brennero tra Vipiteno e confine con l'Austria, sulla 5 tra Cormaior Sud e il traforo del Monte Bianco e sulla 23 Palmanova Tarvisio tra Pontebba e la confine di Stato. Nelle prossime ore è prevista neve a quote molto basse tra Emilia e Veneto, si raccomanda quindi la massima prudenza alla guida ed è allerta per il maltempo nella giornata di domani anche alla sud. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento tra circa mezz'ora. Dai e vai. Non è solo calcio. È solo un gioco, Paul. Non mi dire così. Per favore, è la cosa peggiore, la più stupida che uno potrebbe dire. Perché mi sembra evidente che non sia soltanto un gioco. Sì, insomma, se lo fosse, pensi forse che me ne fregherebbe così tanto? Eh? Non è solo un gioco, invece, quello che fa il nostro avvocato atleta Aldo Mazzocchi, cioè 700 chilometri in bicicletta in Canada, in mezzo alla neve, alci, lupi e Zanna Bianca. Aldo, come però il dato vero che ti abbiamo chiesto subito all'inizio era, tu già hai fatto altre cose, hai fatto altre gare, altri sport, non so se definirli sport, devo dire, ti confesso. Però in questo caso ti sei preparato in maniera particolare, è successo qualche cosa, ma soprattutto quando tu sei autosufficiente, che cosa ti porti dietro? Cioè, che cosa c'hai dentro la tua borsa? C'è una borsa intanto. Allora, attaccato alla bici un po' dappertutto, ho, come ti dicevo, un sacco a pelo che mi consente di dormire on the road. Sì. Sacco a pelo particolare, è un sacco a pelo. Diventare acqua perché. Scusa, è un sacco a pelo un po' particolare, mi senti? Dicevamo, sì, è un sacco a pelo un po' particolare perché devi dormire quanti gradi? È un sacco a pelo assolutamente particolare che mi consente fino a meno 35, meno 40 gradi di, diciamo, schiacciare delle pennichelle. Non è proprio dormire, però certo. Mi riesco a rilassare. Poi ho il cibo, ho, come ti dicevo, l'acqua che ottengo sciogliendo la neve, un po' di ricambi. Sia per la bicicletta che per me, considera che il grosso problema di queste spedizioni al freddo è non bagnarsi, nemmeno col sudore, quindi bisogna stare attenti anche a non sudare troppo. Ah, perché poi si ghiaccia addosso? Se non si ghiaccia addosso, esatto. Mm. Senti una cosa, in questi 700 km... Scusa, fare 100 km senza sudare? E vai piano. Allora, infatti, non è che non si sudi, però devi sempre pensare che se ti fermi di colpo e sei sudato, ti si ghiaccia addosso il sudore. Quindi devi continuare a stare in movimento. Ecco perché vai per sempre in giro. Ho capito. Ecco, in questi 700 chilometri, da quello che abbiamo capito, ci sono dei momenti in cui ti fermi e metti la tenda. Ci sono degli altri momenti in cui hai delle collocazioni un po' più comode o sono tutte così? Sì, sì, ci sono lungo i 700 chilometri circa 5 checkpoint. Quindi ogni 110-120 km mediamente hai la possibilità di fermarti con dei paradossi difficili di queste gare, perché l'organizzatore, che è un tedesco, dice: siccome nei checkpoint non ci stanno tutti, allora se anche arrivi e c'è posto per farti alloccare all'interno, devi dormire fuori. Quindi tu hai questa grottesca sensazione di dormire fuori. Sì. Nonostante a 3 metri da te ci sia una comodissima casetta in Canada che ti potrebbe accogliere. Tra l'altro, no. Voglio dire, in questo caso. Quindi stai fuori e ti senti anche un po' così trattato un po' male, diciamolo, chiaramente, al freddo e al gelo. Ti senti un po' un pirla, ecco, perché. Ah, ok. Mm. Che è un po'... questo è farlo lungo la strada quando non hai alternative, ma avendo lì la casetta comoda sembra un po'... Senti, quante volte avranno, te l'hanno detto questa, ti hanno esternato con questa frase, ma sei pirla? Cioè, no, ovviamente no, tu dici no, è bellissimo perché girare quegli spazi in bicicletta magari avendo magari più tempo sarebbe anche meglio, no? In questo caso gli spazi sono bellissimi. Sicuramente sì, io nasco come viaggiatore, infatti la cosa che più mi interessa più che la performance, che in questo caso è stata anche positiva visto il risultato, però è conoscere posti diversi da quelli che si frequentano abitualmente, vivere ad esempio le emozioni delle aurore boreali, che sono dei fenomeni magnifici, meravigliosi da vivere, stellate. Senti, hai alzato la palla, adesso devi schiacciare, anche perché Luca non sa come ti sei piazzato in questa gara. Allora, sono arrivato primo assoluto. No. Devo dire, per onor del vero, che ero l'unica bici, quindi essere primo facile, in categoria facile. Non è stato difficile. Però ecco, essendo arrivato anche davanti a quelli che l'hanno fatta a piedi e con gli sci, devo dire, considerando che ha nevicato e quindi ho dovuto spingere per 130 km una bici da 47 kg, ha fatto sì che il risultato sia stato comunque ragguardevole per quanto mi riguarda. Perché questa gara qua si poteva fare con tutti i mezzi, quindi ho capito. Io pensavo fosse solo una gara solo di sci, di no, bicicletta. No, lo potevi fare a piedi tirando una slitta, con gli sci tirando una slitta, oppure in bici con... delle borse per tenere il materiale della sopravvivenza. Caro Aldo, ci hai dato un'idea, ci rivedremo lì di nuovo su quella pista con lo spazio neve che ho in mente di prenotare. Okay. Ciao, grazie Aldo Mazzocchi, complimenti. Grazie intanto. A voi, complimenti. Ciao, è stato un piacere. Ciao. E se avessi sbagliato? Devi fidarti dei tuoi compagni, in ogni caso, altrimenti tutto è perduto. Cosa c'è? Cosa è successo? No, è uscita un'intervista di Lilian Thuram, che è stata fatta a El País, il quotidiano spagnolo, in cui ha riproposto quelle dichiarazioni che aveva già fatto nel 2010 in occasione dell'uscita del suo libro, cioè ha detto: in Italia c'è il razzismo, è incredibile quanto accade con Balotelli. Ha riproposto il fatto, cioè, che lo fanno giocare. No, il problema legato al razzismo in Italia. Lui ricorda quando giocava in Italia, dice, quando un giocatore nero toccava la palla il pubblico imitava il verso di una scimmia, dicevano che i neri sono l'anello mancante tra scimmia e uomo, ma questo non è il razzismo più pericoloso, perché è un razzismo che si può vedere. La cosa più pericolosa è quando la gente è razzista in modo incosciente. Quindi questa intervista che è stata fatta del Paese ovviamente desterà scandalo anche domani nei prossimi giorni, le parole di Thuram relative al razzismo nel calcio. Abbiamo pochissimi minuti, però io volevo comunque segnalare e parlare con Roberto Sammito, soltanto io tra l'altro, se vuoi parlare anche tu. Beh sì, no, anch'io. Parli anche tu, vabbè. Ciao, allora. Roberto. Roby. Ciao, buonasera a voi e agli ascoltatori. Ciao. Vabbè, cioè, come va lì? Tutto bene? Tutto bene, sì. Allora, sì, sta bene. Parliamo di Aleicat Race Cicli, ho detto sì. Giusto, ho detto bene? Giustissimo, giustissimo. Ecco, adesso devi spiegarci che cos'è, però hai pochissimi minuti, quindi però... Allora, dici. Vado velocissimo, è una gara ciclistica in cui è noto solo l'inizio e la fine, quindi la partenza e l'arrivo, in mezzo ci sono una serie di checkpoint in cui si deve passare e l'ordine lo decide il ciclista, fino al mattino, però questi punti, questi checkpoint non sono noti, di conseguenza li si scopre solo al momento della partenza e ognuno li improvvisa il giro, decide quale giro fare per completare la gara in sé. È una gara che è nata in Canada, negli anni si è diffusa in tutto il mondo, e questa è la seconda Aleicat Race in Sicilia, ce n'è stata una a Palermo ed è la prima in una città patrimonio dell'UNESCO come appunto è Scicli. Abbiamo appena parlato adesso ancora di un'altra gara di 700 km in questo caso in mezzo alla neve in Canada, e probabilmente il Canada, siccome ha tanto spazio, ogni tanto deve inventarsi qualcosa se no si annoiano e devono andare a trovare gli Inuit. Quindi praticamente tu hai le tappe, cioè il punto di partenza e il punto d'arrivo, decidi tu che percorso fare, giusto? Sì, praticamente chi parteciperà alla gara la mattina riceverà una mappa, su questa mappa del territorio di Scicli ci sono una serie di punti in cui si deve passare. Ecco, sei tu che decidi il percorso e ognuno decide il suo percorso. Chi decide il percorso? Sì, non c'è un percorso prestabilito, ogni partecipante deciderà il proprio e in ogni checkpoint che è legato ad un monumento, a uno spazio particolare della cittadina, lì si deve scattare una foto, così sì, alla fine avremo anche una bella galleria di foto con lo sguardo dei corridori, dei partecipanti che hanno partecipato a questa gara appunto. Questa è la parte estetica di marketing, però quello che volevamo sapere è l'area in cui accade tutto ciò, cioè intanto stiamo parlando di un'area di città o stiamo parlando di montagna, stiamo parlando di campagna, dove siamo collocati in tutta questa area? È un percorso cittadino, siamo all'interno appunto del tessuto urbano di Scicli, che è un comune dal punto di vista dell'estensione non enorme, un comune di 27.000 abitanti. La particolarità sta appunto nel girare all'interno di queste viuzze, di queste strade del tessuto tardo barocco della città, dove appunto è piena di monumenti e quindi da un lato si ha la possibilità di pedalare e di fare appunto questa gara particolare, informale, divertente, che non ha appunto fondamentalmente delle regole, e dall'altro di godere di sicuramente degli scorci mozzafiato che insomma. Quanto dura il tutto? Quanto dura? Si dà un tempo massimo di 2 ore e mezzo, quindi poi lì sarà ad ogni partecipante arrivare prima o dopo. Comunque il tempo è dalle 9, quando è prevista la partenza, fino al mezzogiorno e mezzo. Quindi qualcuno si può ancora iscrivere alla prossima? Sì, ci si può iscrivere, ancora chiaramente info@baroccoslowcost.it. Piano, ripetila con calma. info@baroccoslowcost.it è il sì dell'indirizzo mail in cui ci si può iscrivere e quindi poter partecipare a questa gara. La gara che ci sarà sabato 30 marzo alle 9, giusto? Sì, sabato 30 marzo alle 9 a Scicli, per l'appunto in provincia di Ragusa. Ma si parte tutti assieme o si parte scaglionati? No, si parte tutti insieme, fondamentalmente non essendoci un percorso prestabilito, ognuno sceglierà la direzione che vuole, quindi ci si distribuirà in maniera totalmente disomogenea nel tessuto urbano. Basta soltanto pensare quando si è in quattro in macchina, quando uno dice dobbiamo andare là, ma no, guarda che dobbiamo prendere questa strada, no, guarda che quella là è più un po', no, vai quest'altra qua, vai di là, tutte queste cose, insomma. Ecco. La cosa interessante è che nel comunicato che ci è arrivato in questo modo si parla anche di, oltre che gare a New York, Mexico City, Barcellona, che sono anche un po' più vaste, no? Sì. In questo caso è anche più divertente forse da andare a visitare, questa gara di gatti randagi in realtà è stata fatta anche sulla muraglia cinese, giusto? Sì, ci sono anche dei video che testimoniano anche dei video di tremende cadute sulla muraglia cinese. Spero che non sono caduti giù, perché sennò diventa veramente un po' imbarazzante. Per poco non sono caduti giù. Diciamo che lì il percorso alternativo non è che c'è molto. Senti, cioè vai sulla muraglia. Roberto, magari ci sentiremo ancora, ovviamente, per queste gare. Verranno segnalate ovviamente da Evai, e soprattutto perché c'è la parte che non è solo calcio. Ti ringraziamo, ti salutiamo, grazie, una buona serata. Grazie a voi, buonasera. If I'm the BG, BG. We're the night walk hunters and we don't bow down on nobody's ground. I love to eat them cold, my Indian ring. Valeria Bernardi ci ha guidato al mixer, ci ha guidato amorevolmente fino in fondo a questa puntata, ovviamente anche Giorgio De Luca che ci ha assistito, e Luca Cancellara che è in redazione, è andato a cercare ovviamente queste due gare, diciamolo, che sono veramente una roba. È più malato di quelli che le fanno. Sì, certo, c'è entusiasmo tra l'altro, esatto, in questo caso. E ancora una volta in onda, ancora qui con voi Luca Gattuso e Sergio Ferrentino, vi danno appuntamento ovviamente anche la prossima domenica qui direttamente ancora una volta qui su Radio 24. Dai, vai, non è solo calcio. Buongiorno, sono il presidente di Comieco e do una buona notizia per tutte le imprese che utilizzano imballaggi in carta e cartone. Una notizia che si chiama risparmio. Il 1 aprile il contributo ambientale CONAI per gli imballaggi cellulosici passa da 10 a 6 euro a tonnellata. Grazie alle due riduzioni del 2012, le imprese hanno già risparmiato 30 milioni di euro. Adesso ne risparmieranno altri 10. Un sostegno concreto alle imprese che grazie a carta e cartone risparmiano davvero. Oggi parliamo a voi, Tecnosaturi, voi che non ne potete più di wifi, micro sim, touchscreen, voi che un telefonino lo usate solo per telefonare. Continuate così e se dovete cercare qualcosa, ricordatevi che è il momento di 89 24 24 per cercare senza smettere di fare. Info e costi 89 24 24.it. Su Radio 24 il GR Spettacoli raddoppia. Va in scena dal lunedì al venerdì alle 6.10 e alle 13.25. Due edizioni con tutta l'attualità degli spettacoli e della cultura, con la cronaca dei grandi avvenimenti e le segnalazioni degli appuntamenti imperdibili della settimana, raccontati direttamente dai protagonisti della scena italiana e internazionale.